Sorella terra, ascolto te. Ogni conchiglia, oceano è. E poi ogni foglia è un battito che sa vibrare all'unisono con noi. Se vuoi, sorella terra, che pace dai. Coi tuoi deserti, i tuoi ghiacciai. Così sento nel mio spirito di te quell'infinito anelito, perché le tue foreste sono il mio respiro, sai, e non è più terrestre l'emozione che mi dai, che mi dai. Così dall'inciviltà. Così anch'io divento polvere e mi disperdo dentro un vento a raffiche, perché le tue foreste sono il mio respiro, sai, oh.